Buongiorno. Ora, non predicando a Vienna, mi aspetto un po' di rumore qui mentre predico. In Austria la gente è quieta, ascoltano, più sono attenti a quello che si predica, più sono silenziosi. Quindi il silenzio in Austria è buono. Ma qui in Italia se c'è troppo silenzio divento nervoso. Quindi dovete fare un po' di rumore, ok? Bello, che bello essere qui. È un onore di avere qualche minuto per condividere con voi quello che il Signore mi ha dato per voi. Però iniziando voglio dire questo, prima di tutto, che l'ho detto a alcune persone quando sono arrivato oggi, anche al pastore Mirko, che voi come Chiesa, voi siete una grande ispirazione per molte persone, per me prima di tutto, ma anche per molte persone che so che osservano da lontano quello che siete, che state diventando, che siete diventati e quello che siete. Io voglio dirvi grazie, dire grazie a ognuno di voi, perché una cosa è quello che il leader, il pastore di una chiesa vuole fare, ma è un'altra cosa quando la chiesa lo fa avvenire, no? Quando diciamo a Dio, sì, fallo con me, usa me, cambia me, no? E quindi quando la chiesa insieme dice sì a Dio e Dio può fare il suo esperimento con noi in Italia, è una cosa molto bella, perciò voglio dirvi grazie come Chiesa per essere quello che siete. Siete veramente un'ispirazione. Il modo di essere, sapete che il modo di essere è anche potente, non soltanto quello che diciamo, ma quello che siamo è potente, no? Sapete che uno dei temi che sono i miei favoriti è la cultura della Chiesa, e io dico sempre che la cultura è quello che tu sei, quello che siamo, senza pensarci, no? Anche se io abito da più di 30 anni in Austria, quando parlo ancora muovo le mani. Io sono tarantino, perché l'accento forse può ingannare, perché io sono un po' confuso ora tra il francese, l'inglese, il tedesco, ma in effetti le radici sono di Taranto, no? Taranto vecchio, mio padre. E quindi quando sono andato a scuola nessuno mi ha insegnato a essere italiano, sono diventato perché se sei nato in Italia parli così, no? Infatti i tedeschi dicono una barzelletta sugli italiani, che non possono fare la spesa, gli italiani non possono parlare il sabato perché hanno le borse della spesa nella mano. Ma quello che io lo faccio senza pensarci, io mica ho pianificato, mia madre è francese, si è sposata in Italia, è stata sposata con mio padre per 55 anni e quindi nessuno, non ha mai fatto una classe, una scuola, un seminario su come comportarsi come italiani. Gli italiani mangiano questo, fanno questo, è diventata perché ha abitato in Italia a lungo e poi è diventata un'italiana, no? E quindi la Chiesa è la stessa cosa, noi è una cosa è quello che diciamo, salute, è una cosa è quello che diciamo, è un'altra cosa è quello che facciamo, molto spesso quello che diventiamo diventa così parte di noi che non ce ne accorgiamo nemmeno. E quindi quando noi abbiamo un certo tipo di comportamento nel regno di Dio e lo facciamo senza accorgercene, se noi siamo generosi senza che ce ne accorgiamo, perché siamo diventati generosi, se abbiamo un'atmosfera che è incoraggiante senza che ce ne accorgiamo, non so se succede a voi, la gente viene qui da voi, sono sicuro è così, senza essere un profeta, viene qualcuno nella chiesa qui a pieno evangelio e dice ma che bella atmosfera, e tu dici ah sì, è normale per noi, ma che bella gente sorride, no? Che bello, no? Tu dici è normale, no? Ma è normale per voi perché è diventata la cultura di pieno evangelio, che voi siete incoraggianti, sorridete, c'è una cultura di gioia, di generosità, e questo è normale. Lo fate senza accorgervene, e questo è un buon segno. Però altre persone che vengono se ne accorgono, perché non sono di questa cultura, no? E quindi quando le persone vengono dal di fuori possono dirci qualcosa che noi forse non ce ne accorgiamo più. E sentite questo, specialmente Mottola. Ci stanno ascoltando, vero? Mottola, una parola per Mottola, pieno Vangelo Mottola. Ho visto una persona che ha un diamante in mano e le persone intorno a questa persona ignorano il diamante, lo trattano come se non fosse di valore. E quindi la persona che ha il diamante sta cominciando a credere che forse non ha tanto valore e la tentazione di trattarlo non con tanta attenzione o con apprezzamento del diamante è alta, perché tutti sembrano di ignorarla, tutti sembrano di passare e non guardare. E Dio vuole dire a voi, pieno Vangelo Mottola, quello che ho messo dentro di voi, quello che sto facendo con voi a Mottola, ha più valore di quello che voi sapete. Che le vostre circostanze non vi danno l'attenzione che meritate, non significa che quello che sto facendo non è potente. Non fatevi ingannare, perché quello che sto facendo a Mottola è potente. Amen. Allora, vediamo qua. E poi mentre ero nell'adorazione ho sentito che c'è una persona, non so se sta ascoltando, è qui o no, ma c'è una persona, e penso che è una donna, tu sei un leone, ma ci sono delle persone che ti stanno dicendo che tu sei una gallina, e tu lo stai ascoltando così tante volte che sei una gallina, che ci stai quasi per credere che sei una gallina, ma Dio ti dice, tu sei un leone. Smetti di dare autorità alle voci che ti dicono che sei una gallina e comincia a ascoltare me, perché io dico che tu sei un leone. Non dare autorità, non dare credibilità alle persone che ti stanno dicendo una cosa diversa di quello che tu sei. Ascolta me, avvicinati a me, ascolta quello che io dico su di te. Il diavolo vuole dirti che quello che io dico su di te te lo stai inventando, te lo stai immaginando, ma no, sono io. Non stai diventando, non pensi al di là di quello che dovresti pensare su di te, è la verità. Io ti sto incoraggiando, perché le voci che stai ascoltando ti stanno mettendo giù, ma io ti voglio dire chi tu sei. E smetti di credere, dare autorità a queste voci, abbassi il volume di queste voci. Tu c'hai il volume proprio a portata di mano, abbassi il volume di queste voci, che non abbiano questa forza nella tua vita. Amen. Ok, cominciamo a predicare ora. Eh? Ok, che bello. Allora, quindi, ripeto, è un onore per me essere qui e condividere qualcosa anche della parola di Dio con voi. Ok, ora, oggi voglio parlare di questo, voglio parlare della potenza della solitudine. È qualcosa che tutti conosciamo, perché quando tu nasci solo, a meno che non c'hai un gemello, ma diciamo siamo individui, no? Essere soli è qualcosa che è parte della vita di tutte le persone qui. Ma io voglio parlare della potenza della solitudine, perché c'è proprio all'inizio dell'anno, da metà gennaio fino a metà maggio, mia moglie Angela, che oggi sta predicando a Bari, ed io abbiamo fatto una pausa di 4 mesi dopo 33 anni di lavoro. Amici che ci hanno incoraggiato, fate una lunga vacanza, diciamo che era un miscuglio di vacanza e di riflessione, di input, imparare, andare in altri posti e ricevere, eccetera. E quindi in questo periodo il Signore mi ha mostrato molte cose, tra altro anche l'importanza della solitudine, no? Perché quando io dico la parola solitudine, già alcuni di voi dicono: oh, Dio mi libera, liberami da questa solitudine, non mi piace essere soli. Però sapete che c'è una potenza nella solitudine, e voglio alzare il valore della solitudine oggi, che spero che tutti che sono single, che vanno a casa oggi, dicono: ma che fortuna che ho io, ma che alleluia. E non che quando vai a casa dici: sono solo, ma quando vai a casa dici: wow, sono solo. Tu dici: no Gianni, non so se ce la farai. Oh, vediamo, proviamo. Primo Samuele capitolo 17, Primo Samuele 17, dal verso 1, ora non so che versione avete là, ma io leggo una, forse è la stessa, vediamo. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Damim, L'italiano già per me è un po' difficile ritornare. Poi questi nomi non so perché non potevano dire Bari, Molfetta, vabbè. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliath. Goliath o Goliath? Lo stesso. Goliath. Di Gat, alto 6 cubiti, che era molto alto, penso che 6 cubiti sono 3 metri. Quindi immaginate 3 metri. Immagino un po' 3 metri. Alcune case il soffitto è già 3 metri, non si dice, immagino 3 metri, alto 3 metri, è un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli di bronzo, era pesantissima, a parte delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro alle spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro, di nuovo peso eccezionale, e colui che la portava, che portava il suo scudo, lo precedeva. Quindi aveva una persona che portava solo il suo scudo. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo? E voi siete servi di Saul? Scegliete uno», diciamo insieme uno, scegliete? Uno. Scegliete? Uno. Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare contro me e uccidermi, noi saremo i vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete i nostri sudditi e ci servirete. Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul, il re di Israele, no? E tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti, terrorizzati ed ebbero gran paura. Verso 32, facciamo un salto al 32, dice: Davide, che era un ragazzino, si può dire, che era venuto a portare da mangiare ai suoi fratelli che erano in campo di battaglia, quando Davide è arrivato, questo non dice la Bibbia esattamente questo, ma è arrivato e ha visto questi due eserciti pronti a combattere, e lui sapeva, l'esercito di Israele è forte perché Dio è la nostra parte, quindi è soltanto una questione di tempo, invece di mischiarmi nella battaglia aspetto fino a quando ho combattuto e li porto da mangiare ai miei fratelli. Quindi lui è lì, è quasi, diciamo, è sorpreso da quello che vede questo filisteo, questo soldato, questo guerriero che lancia questa sfida a una persona. E l'esercito che era pronto a combattere, la Bibbia dice erano pronti, erano schierati, non è che Israele aveva paura, non avevano paura, hanno avuto paura dopo, perché la sfida venne non alla Chiesa, ma venne a una persona. La sfida non fu lanciata all'esercito, la sfida fu lanciata a ognuno nell'esercito. È per questo che io predico su questo oggi, perché quando quello che Dio fa nella nostra solitudine, nel tempo quando io sono da solo, quando non sono nella riunione di chiesa, quando sono solo, in effetti è decisivo, decide tutto. Decide anche la forza della Chiesa. E questo filisteo lo sapeva. Se noi combattiamo contro gli israeliti, molto probabilmente lui sapeva, perderemo. Però se io butto questa sfida a una persona, non sono abituati da soli. Non so se c'è questo detto in Italia, non so, c'è qualcuno che dice l'unione fa la forza? C'è questo, no? Ah, ma non so se la predica di oggi non dice la solitudine fa la forza. Forse dovremmo cambiare questo detto e dire non l'unione, ma anche la solitudine fa la forza. Ti dà la forza. Davide è venuto, poi era sorpreso da quello che ha visto, come ragazzino si fa portare, diciamo diventa, si comporta in una maniera che, come si dice, attira l'attenzione, come molto spesso i giovani fanno, no? E quindi si fa portare dal re Saul E lo portano da Saul e Davide, verso 32, dice a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di questo guerriero, il tuo servo andrà e si batterà con questo filisteo. Tu devi immaginare, immagina un po' la situazione, questo ragazzino viene, no? Prima di tutto è già un onore che gli viene portato davanti a Saul e parla come una cosa, ma voi avete bisogno del mio aiuto, no, in effetti. Se tu hai lavorato come pastore un bel po' di anni, è bello, a me piace questa arroganza, no? In effetti una volta, anni fa, ero con un amico mio, un pastore, che mi stava aiutando a iniziare a fare il lavoro missionario in Austria, no? E lui è venuto a predicare per noi e siamo arrivati a casa, ho parcheggiato, sai, si continua a parlare in macchina un po', e poi mi guarda lui e dice a me: ma Gianni, tu lo sai però che tu sei arrogante, vero? Ah, ho detto, oh, come? Pensavo che era il mio amico. Ma era un amico buono, no? Uno che ti dice la verità, no? Quindi non mai devi pensare che i veri amici non sono quelli che ti dicono quello che vuoi sentire. A volte ti dicono anche quello che non vuoi sentire. Lui ha detto, ma tu lo sai Gianni, tu sei giovane, sei un po' arrogante, no? E io ho detto, e perché dici questo? Ha detto, sì, ma tu mi hai appena detto che c'erano delle persone che sono venute alla chiesa tua da un altro villaggio che erano parte di un'altra chiesa, vero? Ho detto, sì. Ti sei mai chiesto come si sente il pastore di quella chiesa, che è piccola, così com'è, e una coppia se n'è andata e viene alla chiesa tua? Ho detto, ah sì, ci ho pensato. E diciamo, hai telefonato a dire, guarda, per un po' di rispetto, eccetera. Ho detto, no, non l'ho fatto. Hai visto? Dice, perché non l'hai fatto? Non ci ho pensato. E perché non ci hai pensato? Perché pensi che in effetti è normale che le altre lasciano la chiesa e vanno alla chiesa tua, no? Ho detto, mamma mia, ha ragione. Allora, questo è un po' un segno di arroganza, che tu pensi che non pensi agli altri, pensi solo a te stesso, no? E quindi Davide arriva e devi immaginare, dice, ma ragazzi, non vi preoccupate, ci sono io ora, no? E pensavano che tutti diranno, ma che bello ci sei tu, eh sì, stavamo aspettando a te, no? La cosa bella è che in effetti un po' di arroganza, Dio... Cioè, se sappiamo cosa fare con l'arroganza, non è buona. C'è questa arroganza, e io conosco Dio, io ho un po' di esperienza e vi aiuterò, no? E quindi c'è un po' di come Giuseppe che andò dai fratelli e disse: ho avuto un sogno, nel mio sogno voi vi inchinavate davanti a me, che bello! Era sorpreso che tutti non erano contenti, dicevano, ma che bel sogno, che bel, sì, non vediamo l'ora. Però la storia di questi ragazzi qui, di questi giovani qui, è bello vedere che il loro cuore fu trasformato, e se uno rimane nell'arroganza non è buono, no? Quindi Davide non sarebbe mai diventato chi è diventato se fosse rimasto arrogante, no? Però c'è questa cosa qua che è una cosa bella da vedere, no? Quindi ci sono io, non vi preoccupate, no? Dice, Saul, verso 33, dice, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide aggiunse, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. E poi Saul ha detto quello che avrei detto anche io, vai, Dio sia con te. Che puoi dire, beh, ok, se tu sei, vai, speriamo il meglio, no? Diciamo, non è che era una cosa profetica, ci crediamo. Ha detto, beh, vai, tanto, ha detto, un pazzo di più, un pazzo di meno. Sapete, la chiesa è plurale, no? Anche se in italiano la chiesa è singolare, ma la chiesa si vive insieme, è un insieme di persone. La chiesa non è io, ma la chiesa siamo noi, no? Quando poi Gesù ha detto una volta ai suoi discepoli, voi siete la luce del mondo, è vero, Io come persona posso essere luce dove sono, ma quello che Gesù ha detto non ha detto tu sei la luce del mondo, l'ha detto con proposito voi. Poi tu puoi essere la luce di casa tua, ma la luce del mondo siamo noi. Quando lui ha detto voi siete il sale della terra, non ha detto tu sei il sale, anche se è vero che noi siamo anche sale, però Dio dice per influenzare il mondo è molto importante che c'è un voi. E noi sappiamo che il gruppo, la comunità è quello che il Signore vuol fare. Questa è una verità molto importante. Però voglio dire questo, che la forza veramente di una chiesa è costituita, quello che ho notato in questi 30 anni di pastorato, diciamo, e da quello che leggo nella Bibbia, la forza di una chiesa è costituita da due cose, dall'abilità di aiutare le persone debole. È molto importante, perciò Dio mette sempre peso, cosa fate per le vedove, gli orfani, i poveri, no? Vediamo nella Bibbia, Dio ha un cuore molto molto grande per le persone che sono deboli, quindi la forza di una chiesa è mostrata dal nostro modo di fare con le persone che sono deboli, no? Come aiutiamo le persone deboli, ma anche un'altra cosa che mostra la forza di una chiesa è l'impegno di ogni individuo a crescere e diventare forte. Il tuo impegno, l'impegno di ogni persona a crescere. Sapete, quello che avviene molto spesso, noi andiamo a scuola, all'università, dopo l'università comincia la vita lavorativa e maggior parte delle persone smettono di crescere. Smettono di cambiare perché ora abbiamo imparato tutto questo tempo di studiare, è finito, ora meno male, che fai ora? Smetti di crescere? Smetti di studiare? No, io dico sempre una persona si invecchia quando smette di imparare, quando smette di crescere. Se tu hai 80 anni e ancora stai crescendo in conoscenza, se ancora sei curioso, se ancora sei curioso nella vita e sai che c'è qualcosa di nuovo che ancora sta per avvenire, qualcosa che ancora che imparerai, che non conosci ancora, tu non sei vecchio, anche se hai 80 anni sei ancora giovane. Ci sono delle persone che hanno 30 anni, sono già invecchiati, sono 100 anni perché hanno smesso di crescere. E quindi è molto importante che ognuno di noi nella Chiesa, ogni persona, ogni individuo è veramente committed, impegnato alla sua crescita e a diventare forte. Perciò una volta Dio ha detto a Giosuè, sì, forte, era un comando, sì, forte, no? Perché lui vuole che noi siamo forti, no? Per vivere bene anche, per costruire chiesa. E quindi è molto importante. Però quello che è molto importante però è che noi, anche se siamo come chiesa un gruppo di persone, che ogni persona trova la sua identità non soltanto nel gruppo, ma anche nella solitudine, in quello che io sono come persona e non creando la mia identità di chi sono nel gruppo. Io voglio un po' spiegare questo. Per esempio, la relazione che io ho con Dio, prima di questa riunione abbiamo pregato insieme con un gruppo di persone, abbiamo avuto un tempo di adorazione con la band, con alcuni che sono coinvolti nella riuscita di questa riunione, no? Abbiamo lodato Dio, abbiamo pregato. Questo è anche qualcosa di spirituale nella mia vita. Ora siamo qui, abbiamo fatto adorazione insieme, ascoltiamo la parola di Dio, preghiamo anche. Se questa è la mia vita spirituale e io non ho una vita quando sono solo spirituale, se questa è l'unica identità che io ho spirituale, non basta. Perché questo non è quello che tu sei in effetti, è quello che tu sei nel gruppo, nella chiesa, ma c'è qualcosa di ancora più profondo di quello che tu sei veramente. Conoscete la storia quando Gesù va a risuscitare Lazzaro? Penso che molti di voi la sanno la storia, e se non sbaglio era Marta che è uscita, no? Marta esce, Maria rimane, Marta esce e dice, parla con Gesù e dice a Gesù: se tu fossi venuto prima, mio fratello non sarebbe morto. E poi si ricorda di quello che in effetti ha imparato, di dire parole di fede, di essere positiva, eccetera. Si ricorda e dice: no, non è buono dire questo. No, ma io so che qualsiasi tu cosa chiederai al Padre ti sarà dato, no? E poi Gesù dice: tuo fratello risusciterà. E dice a lei: credi tu questo? E lei risponde, dice: sì, no, lui risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù la stava sfidando in quello che lei veramente, veramente, veramente crede. Quello che tu credi, non quello che tu credi nella Chiesa. Non, sapete quando qua è l'atmosfera in questa Chiesa proprio ti incoraggia ad adorare Dio. No, non puoi fare nient'altro quando questa band, già, soltanto vedere il volto delle persone qui sulla, non puoi fare altro che coinvolgerti, no? Però se quello è l'unico posto dove tu adori, non è tutto, c'è un momento dove tu sei solo, dove non c'è la band, dove tu trovi questo punto dove tu dici: Signore, non c'è la musica, non c'è niente, ma io ti adoro lo stesso. Dove non c'è l'atmosfera dell'accoglienza che ti ha sorriso, dove anzi tutto sta andando male e tu cominci a adorare Dio. Quello comincia a essere chi sei veramente. Forma l'adoratore in te. E quando tu vieni nella riunione in chiesa, quello che tu fai è parte di chi tu sei. Non sei quello che sei qui, ma sei quello che sei anche quando sei da solo. Perciò in Giovanni capitolo 4, non voglio leggerlo tutto, ma Gesù dice questo, dice: ma l'ora viene, verso 23, Giovanni 4, 23, dice Gesù: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. In altre parole, non è tanto importante il modo di adorare. Anche se io ho anche le mie preferenze, devo dire. Potrei essere qui con voi per ore e ore, è il mio stile, no? Però non è in effetti lo stile, è veramente questa attitudine di adorazione che ci fa diventare adoratori. È quello che tu diventi adoratore non soltanto nella Chiesa, ma anche nella tua vita, anzi principalmente nella tua vita quando sei solo. E poi quando ci raduniamo tutti insieme, quello che avviene è quello che noi siamo insieme. Lo portiamo tutti insieme e diventa una cosa potente. Quindi Davide, nel Samuele, primo Samuele 17, abbiamo letto che la ragione per la quale Davide aveva questo coraggio di andare a combattere contro questo filisteo era... Si trova nel verso 34, primo Samuele 17, 34, dice: Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone, un orso a portar via una pecora dal gregge, allora gli correvo dietro, lo colpivo, li strappavo dalle fauce, eccetera, eccetera. Quindi Davide dice: a causa di quello che è avvenuto nella mia vita, quando io ero solo, e ho telefonato a tutti gli amici, nessuno ha risposto. C'era sempre questa answering machine, come si dice? La segreteria telefonica. E quando avevo bisogno di qualcuno, non c'era nessuno per me. Lo so, non sto parlando a voi, no? Non è mai successo a voi. Dov'è la Chiesa quando ne hai bisogno? Ma forse Dio stava dicendo: è il momento che tu combatti da solo. È il momento che tu hai un'esperienza che la tua forza è in me, e non soltanto nella Chiesa, ma anche in me. Così tu puoi combattere nella Chiesa, per la Chiesa, nel mondo. C'è sempre un combattimento in solitudine per una vittoria pubblica. Se tu sei una persona che al momento giusto non hai trovato le persone alle quali avevi bisogno, e ti sei sentita sola, forse è successo che Dio aveva pianificato tutto, che nessuno è raggiungibile. Perché lui voleva fare un training con te. per prepararti a qualcosa di più grande ancora. Quindi vittoria nella solitudine, ma poi c'è il combattimento nella solitudine, ma poi c'è la vittoria che diventa una vittoria pubblica. C'è la forza nella solitudine. Forse qualcuno dice, Gianni, quando io sono solo, non mi piace quello che vedo in me, non mi piace. Ma sai che la persona che Dio ama non è la persona che è in chiesa con le mani alzate, che canta e dice, tu sei tutto quello che ho bisogno, eccetera. Dio non ama solo quella persona. Lui ama anche quella persona che a te non piace. Gianni, se tu sentiresti i dubbi che io ho nella mia mente quando sono solo, tu anche ti preoccuperesti per me. Eppure quando noi diciamo Dio ti ama, ama anche quello. A me piacciono i salmi di Davide, perché molto spesso nei salmi si vedono delle cose che Davide dice e sono state scritte così tu non ti senti solo. Quando tu vuoi uccidere il vicino di casa, no? E tu, quando sei in chiesa, non diresti mai, ma sai, fratelli e sorelle, io ieri volevo uccidere il vicino di casa, mica diresti, la testimonianza è bella, dici, no? Eppure il cuore di Davide è esposto. Quando Davide ha scritto i salmi, io non penso che sapeva che i suoi salmi sarebbero stati scritti nel libro più venduto nel mondo. Immagino, tu scrivi il diario a casa di quella, e poi viene pubblicizzato. Tu dici, io avrei voluto vivere nei tempi di Gesù. No, non penso che tu, perché può darsi che tutto quello che ha fatto sbagliato, come Pietro, sarebbe stato scritto nella Bibbia. Almeno ora non ne sa nessuno, sono soltanto il team pastorale. Immagino se tutti i tuoi errori, no, ti fossero pubblicizzati. Perché? Per incoraggiare altre persone. Non dimenticare mai. Non devi mai sottovalutare i capitoli della tua vita che a te non piacciono, perché molto spesso sono quelli che incoraggiano altre persone. Molto spesso quando Dio scrive il capitolo 7 della mia vita e tu vedi che sta scrivendo, tu dici, ah! E tu leggi il capitolo 15 della vita di Sara, ma che bello Dio, quello, dici, no, io sto scrivendo, vieni, ritorna qua, stiamo scrivendo il capitolo 7, ma a me non mi piace quello che sta avvenendo, no, ma lo scriviamo lo stesso, no, ma il capitolo 15 di Sara che è così bello, così incoraggiante, sì, ma lei ha anche il capitolo 3 che tu non lo vuoi leggere, no, quindi non c'è 15, Io voglio incoraggiare qualcuno oggi che se tu pensi che non ti piace quello che tu vedi nella tua solitudine dentro di te, Dio dice, io ti amo. E io so tutto di te. Come già è stato detto oggi dal pastore Mirko, lui sa tutto. E lui vuole cominciare a guardare te stesso e a dire, anche con i miei dubbi, con le cose che non sa nessuno, Dio mi ama, mi vuole bene, non mi devo nascondere. È importante che queste cose che avvengono nella solitudine, nella mia vita, i dubbi che ho, li porto al Signore e li abbraccio, dico questo è quello che sono ora, ma Dio tu puoi cambiarmi lo stesso. E dai importanza a queste battaglie che avvengono quando sei solo. Perché le vittorie che tu avrai, a volte il leone non è qualcuno dal di fuori, il leone, cioè quello che ti aggredisce, è dentro di te. Le battaglie che tu vincerai nella tua vita sono così importanti, non essere scoraggiato. Persisti in queste cose, non farti scoraggiare, di no, io persisterò. Perché non è soltanto la vittoria tua, è la vittoria di tutti. Ultimamente parlavo con una persona che ha attraversato un divorzio così. La storia è così proprio travolgente. E questa signora mi stava dicendo la sua storia. E io, mentre raccontava, io sorridevo. E lei mi guarda e dice, ma perché stai sorridendo? Io ho detto, sto immaginando quante persone tu puoi aiutare ora con questa storia. Perché io non so di cosa stai parlando, non l'ho mai sperimentato. Ma il Signore vuole usare da tutta questa storia qua, vuole far uscire loro, così tu puoi addire a altre donne, anche se hai attraversato questo periodo nella tua vita, la vita non finisce, la vita continua. E come abbiamo detto, di gloria in gloria, non c'è mai un momento dove no, per me non è più di gloria in gloria, ora è successo qualcosa, va di gloria sempre più giù. Per ogni persona, se noi confidiamo in Dio, lasciamo che Dio lavora nella nostra vita, c'è di gloria in gloria. Amen. Non escluderti mai da quello che la parola di Dio dice sulla tua vita. Circa 14 anni fa, mia moglie era malata, mia moglie Angela si è ammalata, aveva, diciamo, vomitava, quindi io pensavo che era, come si dice, un virus che andava in giro. Ho detto, no, vabbè, passerà, abbiamo pregato. E poi ho visto in giro, ma non c'era nessuno che era malato, non c'era questa, diciamo, il virus, no? Come dice tutti, sono malati, la metà chiesa a letto, eccetera, no, era solo lei. Ho detto, ma strano. E non migliorava, peggiorava. Poi, anzi, beveva un bicchiere d'acqua, lo beveva e dopo un secondo usciva. Ho detto, ma questo non è un buon segno, aspettiamo un po'. Una sera mia moglie ha detto, guarda Gianni, io mi sento malissimo, dobbiamo chiamare il dottore. Abbiamo chiamato un dottore, è venuto a casa, perché Angela era così debole. Il dottore l'ha vista, ha detto, chiama l'ambulanza. Abbiamo chiamato l'ambulanza, l'hanno portata all'ospedale. E a questo ospedale c'era un amico nostro, uno dei dottori nell'ospedale, dei chirurghi, era un amico nostro. Io mi ha telefonato, ha detto Gianni, ha detto, non avresti dovuto aspettare due o tre ore, tu avresti perso tua moglie. Io ho detto, ma che sta dicendo? Ha detto, tua moglie è disidratata, non c'è più liquido nel corpo, sarebbe morta. Ho detto, che è successo? Ho detto, no, dobbiamo vedere che è successo, dobbiamo fare una analisi. Quindi ha detto, aspetta fuori là la reparto e ti chiamo. Aspetta, e dice, abbiamo fatto un'analisi, abbiamo scoperto che c'è una crescita, in italiano penso che si chiama la tiroide, c'è una crescita qui, la parola giusta sarebbe stata la paratiroide, una cosa a fianco alla tiroide, qui c'è una crescita. Ho detto, ok, ho detto, sì, la opereremo e vediamo. Ho detto, ok, la opererete, tutto a posto. Sì, no, dobbiamo analizzare, vedere che cos'è. E io ho detto, che vuoi dire che cos'è? Ma Gianni, può essere un tumore maligno. Io l'ho guardato e ho detto, cosa? Ho detto, può essere benigno o maligno, no? Dobbiamo operarlo, uscirlo, prenderlo e vedere, analizzare. Vai a casa, non puoi aspettare qui, ti chiamo. Come vai a casa e ti chiamo? I nostri figli erano piccoli, no? Erano a casa di altre persone che sapevano, eravamo andati all'ospedale, quindi quando sono ritornato a casa, era pomeriggio tardi, ero solo. Ero così nervoso. Ma cosa faccio ora? E Jonathan viene a suonare. Dove è Jonathan? Ah, lei è Jonathan. È apparso Jonathan. Sì, un angelo, sì. E, allora ho detto, beh, ora mi devo rilassare. Ho riempito la vasca da bagno di acqua, mi sono messo nella vasca da bagno e stavo là. Mezz'ora passa, un'ora passa, aspetto la telefonata, aspetto la chiamata. E mentre aspetto là, cominciano delle voci. Come vivrai senza tua moglie? Devi educare questi tre bambini, allevarli da solo, senza Angela. Comincio a pensare, cosa farai ora? Stavamo per spostarci in un'altra casa, costruendo una casa fuori Vienna. E questa voce diceva, ma forse ora devi smettere, non puoi più andare oltre col progetto, perché quando perdi tua moglie, mica puoi andare avanti. Cosa farai senza Angela? E mentre ero lì, questa voce diventava sempre più forte. Io stavo proprio pensando a questo. Cosa farai senza Angela? Cosa farai senza Angela? Con i bambini, senza la madre? Era una cosa strana, molto strana, perché era così tardi che io non avevo acceso la luce del bagno, no? Perché era luce quando mi sono messo nella vasca da bagno. E ora era scuro. Quindi la stanza era proprio scura, così come la mia mente. E mentre io penso questo, era come se uno entra e fa così davanti, vicino all'orecchio. Era come se mi sono svegliato e Dio mi ha detto: che stai facendo, Gianni? Che stai facendo? È come se Dio venisse e mi mostrasse lo specchio. Dice: Gianni, guarda, ora, in questo momento, questo è Gianni. L'uomo di fede che predica alle persone. Quando c'è un verdetto del dottore, credi il verdetto di Dio sulla tua vita. Questo è il Gianni che gli altri conoscono, che tu pensi di essere. Il Gianni vero è questo ora. Mamma mia. Sapete, quando Dio fa questo, non lo fa per scoraggiarti, non lo fa per dire: ah, ora ti ho afferrato, visto. No, no, no, no. Lo fa per mostrarti: e Gianni, in questo momento dove sei solo, dove non c'è nessuno che prega per te, nessuno che ti incoraggia, e hai avuto questa informazione, in questo momento tu devi essere forte. In questo momento devi dire: no, mia moglie non morirà, mia moglie vivrà. Noi siamo qui per fare un lavoro che ancora non è finito. E comincia a confessare chi sono io nella tua vita. E in questo momento di solitudine il Signore ha fatto come qualcosa di molto potente. Mi ha mostrato: Gianni, guarda, nella tua solitudine, guarda. È stato così prezioso per me. E in quel momento ho deciso: no, ho acceso la luce e ho cominciato a dichiarare quello che io dicevo a tutte le altre persone di dichiarare in un momento del genere. Quindi tu forse sei in questa situazione oggi, tu dici: Gianni, è così difficile per me. E tu cerchi aiuto da altre persone. E Dio dice: no, io voglio che tu nella tua solitudine cominci a alzarti. Cominci a dire: Dio, tu sei per me chi tu sei in questo momento. Non quando sono nella chiesa soltanto, ma anche ora nella mia solitudine. Perché se tu hai la vittoria in quel momento, sarà una vittoria non soltanto per la tua vita, ma sarà una vittoria per tutta la Chiesa. Perché c'è un momento dove Dio vuole usarci per combattere per le persone che non possono combattere per loro stessi. Amen? Possiamo alzarci in piedi, per favore? Voglio chiedervi di chiudere gli occhi per un minuto. Quando all'inizio ho detto che il Signore vuole cambiare la nostra vista, il nostro pensiero sulla solitudine, non scherzavo. Forse ci sono persone qui, almeno una persona, tu vuoi sempre essere con altre persone perché non vuoi essere solo, non ti piace essere solo, perché solo pensi a cose che non vuoi pensare, non vuoi pensare a te stesso, non vuoi riflettere su quello che è dentro di te, e cerchi di scappare, cerchi di sempre essere in compagnia. E Dio sta chiamando alcuni di voi che sono esattamente così, alla solitudine, vi sta chiamando a dire: dai, trascorri del tempo da solo. Prendi la Bibbia, lascia lo smartphone a casa e trascorri del tempo da solo. Forse tu sei una persona che sta sempre guardando al telefono e sempre con altre persone là, nel chat e nel Instagram. E Dio ti sta dicendo oggi: metti un nuovo altar call, un nuovo appello, no? Oggigiorno. Il Signore ci chiama a mettere lo smartphone a parte e dire: Signore, io voglio essere solo. Tu dici: ma Gianni, sono solo, lo smartphone non ho mica, è solo un telefono. No, no, tutti i nomi che sono qua sono tutti con te sempre. Quindi li metti da parte e dici: Signore, solo tu e io. C'è almeno una persona qui che tu hai dei dubbi proprio su Dio, sull'esistenza di Dio, e i tuoi amici, le persone non lo sanno questo. E Dio dice: io non mi vergogno di questo, di te, io lo so questo, e io voglio che tu cominci a cercarmi, cominci a combattere per arrivare alla verità che tu veramente credi. Non alla verità che si deve credere, la verità che tu credi. E Dio dice: questo è prezioso ai miei occhi, che tu pensi questo, e voglio che tu vieni da me e mi scopri per te stesso. Abbiamo cantato una canzone che dice: con te non sarò mai solo. Sono al sicuro. Dio vuole mostrarti che tu sei veramente al sicuro con Lui. Veramente. Veramente. Che non ti può succedere niente, sia al sicuro. E non sono parole che canterai nella chiesa qui, al pieno Vangelo, ma saranno parole che tu sai. Con te Dio, io sono al sicuro. Signore, io ti credo, ti chiedo con tutto il cuore che tu aiuti specialmente le persone che sottovalutano la potenza della solitudine, che loro riscoprono la forza nella solitudine. Signore, io ti chiedo che i Davide non scappano più quando il leone arriva, ma combatteranno. Ti chiedo, Signore, per le persone che hanno detto fino ad ora: ma io mi sento solo, mi sento sola, che da oggi in poi non diranno più: ma sono sola, ma diranno: oh, in questa solitudine io scoprirò la mia forza. Amen. Yes, Jesus is Jesus. You are my strength and you are my refuge. You are my strength and you are my refuge. C'è una persona che prima era sposata, tu sei qui, una donna, e tu ti senti come: io sono la metà. No, si dice anche la mia metà. E la tua metà non c'è più. Non so per quale ragione, se diciamo non vive più, oppure perché la relazione non... E tu ti senti veramente metà. E Dio ti vuole dire: tu, io non ti vedo metà. Io ti vedo come persona. E Dio vuole da oggi in poi che tu non ti vedi più come metà, che tu ti vedi come persona intera. Amen. Signore, ti chiedo in conclusione che tu ci aiuti come chiesa a vedere la forza nella solitudine, che alcuni di noi, anzi da oggi in poi, cercheranno la solitudine, cercheranno momenti di solitudine con te. E che in questa solitudine, ti chiedo specialmente per i giovani di questa prima fila qui, che loro non si faranno ingannare da dover essere sempre in mezzo a amici, ma ci sono momenti che loro diranno: no, no, no, no, oggi voglio stare sola e non avrò autocommiserazione, oggi dirò: oggi è il tempo per me, oggi è il tempo per me e per Dio, oggi voglio apprezzare quello che sono diventata, oggi voglio apprezzare chi è Dio per la mia vita, oggi voglio conquistare le cose che non ho conquistato fino ad ora. E che come chiesa diventeremo tutti più forti a causa della forza che noi abbiamo nella solitudine, nel nome di Gesù. Amen. Dai.